rispondere. E nell'affanno un rogo appare a me, che stringe vampa in sé, di sangue tinturrio resi campi una vele, un popolo che vuole e a me la mano protende, si come il vedento, ehi, me l'ha inventuta. Ma lui andrà beato, vento vincitore, Elisabetta ti stringo al sé, e mia virtù la fila crea.